Letture di Radio 24. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Il 4 febbraio di 30 anni fa moriva Karen Carpenter, una delle più belle voci femminili di tutti i tempi. Assieme al fratello Richard, nel 1969 aveva formato il gruppo dei Carpenters, che nel corso del decennio successivo arrivò a vendere oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, grazie a successi come Close to You, Rainy Days and Mondays o We Have Only Just Begun. Pur non essendo mai stata sovrappeso, Karen da ragazza era ossessionata dall'idea di avere i fianchi troppo larghi e dopo aver cercato invano di perdere peso tramite un personal trainer, aveva deciso di arrangiarsi da sola, come racconta Randy Schmidt nella biografia che ha dedicato alla cantante. Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. Acquistò una panca per gli addominali che usava ogni mattina nel suo letto e, dato che era di dimensioni ridotte, se la portava dietro anche quando andava in tournée. So che la utilizzava spesso, ricorda Danny Brooks, che aveva lavorato più volte con i Carpenters nelle loro tournée di metà anni 70. Karen era un po' rotondetta nei fianchi e nelle cosce, dice, e so che la cosa la ossessionava. Aveva perso una decina di chili e sembrava stupenda, ricorda Carol Kerb. Adesso pesava una cinquantina di chili ed era fantastica. Se solo fosse stata in grado di fermarsi lì, la sua vita sarebbe stata meravigliosa. Molte di noi ragazze in quel periodo avevamo vissuto momenti come quelli. Ognuna di noi voleva essere come Twiggy. Quasi tutti avevano qualche sorta di disturbo dell'alimentazione. C'è chi mangia troppo e chi mangia troppo poco. Karen si è semplicemente fatta trascinare dalla cosa. Non è riuscita a fermarsi. Avendo constatato l'ossessione che aveva sua sorella Karen nel contare le calorie e nel pianificare il consumo di cibo ad ogni pasto, Richard si era inizialmente complimentato con lei per la perdita di peso durante una pausa di lavoro al bistrò francese Au Petit Café. «Sei uno schianto», le disse. «Sì», rispose lei, «voglio arrivare a 47 chili». «47 chili? Ma stai bene così?» La risposta di Karen aveva fatto preoccupare Richard. Di fatto, quella era stata la prima volta che si era fermato a pensare che forse lei stava prendendo la dieta troppo sul serio. Karen aveva perso una decina di chili e stava bene, ricorda il suo manager, Sherwin Bush. Ma questo non le bastava. Aveva bisogno di attenzioni, di affetto e di tutto quello che si aspetta chi riesce faticosamente a perdere peso. Se non li otteneva, andava avanti a perdere peso e diventava spaventosamente magra. Naturalmente, quando lei si guardava allo specchio, vedeva qualcuno che nessun altro poteva vedere, qualcuno che era poco attraente e sovrappeso. Gli amici e i parenti avevano iniziato a notare i cambiamenti estremi che stavano avvenendo nelle abitudini alimentari di Karen. Una delle cose che faceva, ad esempio, era continuare a spostare il cibo sul piatto con la forchetta mentre parlava, il che dava l'impressione che stesse mangiando. Un altro dei suoi trucchi era quello di offrire un po' di quello che stava mangiando agli altri commensali. «Provate un po' ad assaggiare questo», diceva, e così scaricava ampie porzioni del suo piatto su quelli degli altri. Mamma Agnes si era accorta del trucco e aveva iniziato a fare lo stesso. «Bene, anche questo è buono, assaggia», diceva, mentre riempiva di nuovo il piatto della figlia. After long enough of being alone, everyone must face their share of loneliness. Avete ascoltato la lettura di alcuni brani dal libro di Randy L. Schmidt, Little Girl Blue, The Life of Karen Carpenter, Chicago Review Press, 352 pagine, $26.95.